Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Guardandomi con una timida compassione, Nunziata mi chiese: «E così tutto questo tempo tuo, tu l'hai passato sempre solo?» «Eh già, ma tuo padre non ti faceva compagnia?» «Certo», io risposi, «quando si trova a Procida lui sta sempre assieme a me, dal mattino alla sera, ma lui ha da viaggiare e io per adesso non avevo ancora l'età per i viaggi. Fra non molto avrò l'età e viaggerò insieme a lui». «E per che fare viaggerete insieme?» «Come per che fare? Prima cosa per visitare le meraviglie geografiche mondiali, questo è logico». «Ma quali meraviglie?» essa interrogò. L'argomento, da lei messo in ballo con questa domanda, era troppo affascinante e da troppo tempo bruciava senza sfogo nel chiuso della mia fantasia, perché io non ne fossi trascinato lì per lì a un'eloquenza incontenibile. E allora mi detti a citarle, con enfasi, le più urgenti fra le molte strepitose meraviglie che sparse per il globo aspettavano la vista di Wilhelm e di Arturo Gerace. Ma lei, che fin qui aveva accolto ogni mia parola con tanta modestia, mostrò invece su questo nuovo argomento un'autorevolezza bellicosa. Pareva che per lei, fuori di Napoli e dintorni, niente valesse la pena di essere esplorato, così che, all'udirmi celebrare quelle cose esotiche, la gelosia dell'onore napoletano la faceva adombrare, e ogni tanto si mise a interrompermi per dirmi, in accento glorioso e insieme amaro, che pure a Napoli c'era questo e c'era quello, come se tutte le magnificenze esistenti nel resto della terra fossero in fondo roba di second'ordine, da provinciali, e un cittadino di quella primaria metropoli potesse risparmiarsi la pena di andare in giro. A lui bastava rinascere perché tanto l'esemplare supremo di ogni cosa poteva trovarlo sotto casa sua. Io principiai a vantare il castello dei crociati di Siria, dove ai tempi antichi abitavano fino a 10.000 cavalieri. Ed essa, pronta, mi annunciò che a Napoli sorgeva un castello, grande più di 50 volte questo di mio padre, il quale veniva nominato dell'uovo, perché era tutto chiuso, quasi senza aperture come un uovo. E là dentro ci stavano i re delle due Sicilie, i Barboni. Io le citai la colossale Sfinge d'Egitto, che per vederla partivano migliaia di carovane da tutti i continenti. Ed essa, in risposta, mi nominò una chiesa di Napoli dove esisteva una Vergine marmorea, alta quanto una gigantessa, che talvolta mostrarle un crocifisso, anche piccolino, di quelli che si portano al collo come ciondoli, versava dagli occhi vere lacrime. Mi assicurò che molte persone attestavano il prodigio, non soltanto napoletani, ma americani, francesi, perfino un duca, e che quella statua era visitata da migliaia di pellegrini, i quali con le offerte di croci, cuori e catene preziose avevano trasformato la chiesa in una miniera d'oro. Io la lasciavo dire, con una magnanimità non priva di compassione, giacché per me la città di Napoli significava appena un punto di partenza verso i miei viaggi, un atomo trascurabile, mentre che lei, per il suo inglorioso destino, era condannata a non conoscere mai niente del mondo fuori di Napoli e Procida. Stavo a sentire, perciò, con un'aria quasi compunta tutte quelle napoletanerie che altri dovevano averle dato a intendere e che lei mi raccontava in perfetta credulità gesticolando con le sue manucce, allorché d'un tratto una ilarità fantastica prese a solleticarmi la gola e ruppi in una tale risata che addirittura dal gran ridere mi buttai giù lungo disteso con la pancia contro il pavimento. Mi pareva di non aver mai provato un'allegrezza tanto straordinaria, tale da non parermi soltanto mia, ma anche di lei e dell'intero universo. Ma lei, come era logico, se la prese a male. I suoi vanti napoletani si interruppero di colpo e udì la sua voce protestare, risentita e mortificata. «Domanda alla mia madre se dico bugie. Lo puoi domandare a tutta Napoli se questi fatti che t'ho detto sono invenzione mia o sono verità». A ciò io rialzai un poco il capo, disposto a rassicurarla lealmente, giacché in realtà non mettevo in dubbio la sua buona fede e curiosamente mi dispiaceva di amareggiarla a torto. Se non che, appena me la rividi davanti, che mi guardava ingrugnata e si dondolava, riecco che la mia ilarità, come un ritornello di musica, mi riprese e invece di parlare risi peggio di prima. Questa scena, nello spazio di un minuto, si ripeté 2 o 3 volte. Ogni tanto mi interrompevo dal ridere, gettavo un'altra occhiata su di lei e mi ributtavo a ridere con più gusto. Cosicché, senza nessuna intenzione mia, lei fatalmente sempre più appariva offesa. I suoi labbri si sporgevano ad un corruccio grave che ormai pareva vicino a travolgerla e io incominciai a pensare che farà col gusto di un gioco drammatico, come quando aizzavo in Macolatella. Infine udì che si era messa a brontolare e d'improvviso fece un passo verso il centro della stanza, dove si fermò, esclamando in accenti amari e supremi da profetessa: «Lo giuro, davanti a tutte le anime benedette del purgatorio, che non ho inventato nessuna bugia. Stanno tutti a testimonio di questo giuramento». Alla grande solennità di simile scena, io istantaneamente mi rifeci serio, ma essa, nel presente momento, neppure mi guardava. E terminò: «Mi sente pure mio padre, i miei fratelli, che io possa cascare qua a terra in questo preciso minuto so inventato quelle cose di Napoli, che io possa cascare uccisa». Proferito che bel giuramento, inghiottì, e io mi avvidi che, per l'emozione di sentirsi calunniata da me, le tremava il mento e la bocca. Senza guardarmi, forse perché timorosa di vedermi ridere ancora, mi disse, con un filo di voce: «Adesso così mi potrai credere che non t'ho detto falsità». La mia coscienza allora si riscosse, rimproverandomi la mia scostumatezza di prima, e arrabbiato contro me stesso, in un impeto risoluto mi levai in piedi, ponendomi di fronte a lei. Quindi esclamai, con accenti più che seri, addirittura storici e fatali: «Sul mio onore, che io possa cadere qua fulminato se dico il falso, giuro che ho creduto fin da principio alla sincerità d'ogni tua parola e non ti ritengo una mentitrice». A memoria mia, finora nella mia vita, non aveva mai avuto luogo una cerimonia di simile importanza, e io ne risentii per questo fatto una grande soddisfazione. Quanto a lei, già tutta rasserenata, mi fece un sorriso che sembrava ringraziarmi e domandarmi al tempo stesso perché allora tanta ilarità. Ma in coscienza io non trovai da darle altra risposta migliore di questa che le diedi in modo sbrigativo. Ridevo così perché mi andava di ridere. Ed essa rimase paga di simile spiegazione, né mi domandò altro. Ebbe un breve sospiro grato, nel quale tutta l'amarezza che aveva inghiottita poco prima sembrava sciogliersi, sgombrandole il cuore d'ogni peso, e scuotendo il capo a deplorare i propri sospetti, disse con una voce contenta: «Ed io credevo che tu m'accusassi d'aver detto falsità». Alzai le spalle. «Va, lo so benissimo che tu non dici fandonie», esclamai, e aggiunsi in tono di proclamazione spavalda: «Ti conosco». Tale frase, «ti conosco», mi venne naturale, e al dirla mi accorsi fra me, sorprendendomi, che per quanto curioso, ciò era proprio vero. Tutte le altre persone, e mio padre, lui più di tutti, mi rimanevano sempre misteriose, e questa invece, che avevo incontrato oggi per la prima volta, mi pareva già di conoscerla a memoria. Che fosse stata questa scoperta sorprendente, in fondo, la vera ragione del mio riso? Ad ogni modo, non sapendo che altro dire, tornai a sedermi in terra dove stavo prima e conclusi in tono seccato: «Ho giurato sull'onore, che altro vuoi di più? Accidenti al diavolo!» Nunziatella stava là a riguardarmi con quei suoi occhi pieni di confidenze e di antichità puerile che mi ricordavano, nel tempo stesso, le notti stellate dell'isola Emma Colatella. E dopo un silenzio assorto, osservò, quasi non sapesse rassegnarsi ad una simile idea. «Ma tu tutta questa tua vita l'hai passata senza madre?» «Io», le risposi fiero, levando il capo, «quando avevo un mese potevo già stare solo per conto mio. Una volta Silvestro andò a Napoli per assistere a una partita di calcio del campionato nazionale e io rimasi solo per tutta una giornata. Ma aveva attaccata al collo la bottiglia infrangibile col succhiatoio e perché non cadessi mi aveva posato per terra su degli stracci.» «Silvestro chi era?» Ella si informò. «Era uno di Napoli che rimase qui finché non lo chiamarono per fare il soldato. Un amico mio. È lui che mi ha dato il latte.» «Come? T'ha dato il latte?» «Sì, ma allevato con latte di capra.» «Oh!» essa notò con profonda indignazione. «Il latte di capra, che non ha nemmeno un sapore cristiano. E tu come hai fatto a crescerci così bello? A Napoli dicono che il latte delle capre e delle pecore è buono solamente per i caprai e per i pecorai. Mio fratello, se c'era il formaggio di pecora sulla pasta, mica se la mangiava. E quel soldato là, che razza di napoletano poteva essere a darti latte di capra? E pensare, averlo saputo, a mia madre le faceva perfino male il petto certi anni per il latte che aveva. A poterlo sapere che qui a Procida c'eri tu con una capra, t'avremmo portato a casa nostra e saresti cresciuto insieme a noi.» La sua voce, ormai già familiare per me, di ragazza che ancora non ha finito di crescere, suonava adesso d'un'incredulità leggendaria, fraterna e quasi amara. «Se tu abitavi là, assieme a noi», disse, «per te sarebbe stata tutta un'altra vita. Io t'avrei badato e t'avrei tenuto in braccio. Che credi tu? Pure da piccerella io già sapevo tenere in braccio le creature. Per forza che a casa nostra c'era la fabbrica e tutti sono stati in braccio a me, che ci sapevo saltare anche la corda con la creatura in braccio.» «Sì», informai io a questo punto. «Ma tu, quanti anni hai?» «Ne ho finito 16 a ottobre, e tu?» «Sono entrato nei 15 a dicembre», le risposi. E fra di me calcolai, essa, dunque, ha 16 anni e 3 mesi. Quando sono nato io, aveva 2 anni, e a quell'età pretendeva di portarmi in braccio. Tuttavia non le feci notare questa inverosimiglianza e la lasciai seguitare senza dire nulla. «Tu potevi essere proprio uno della nostra famiglia, come un altro fratello. Abbiamo un letto grande che ci possono stare fino a 6, fino a 8 cristiani. Ci potevi dormire pure tu assieme a noi. E se tuo padre, dopo aver viaggiato per conto suo, ti veniva a trovare e si faceva tardi alla sera, poteva coricarsi pure lui a casa nostra volendo, perché il letto nostro tiene 2 materassi. Un materasso si poteva stendere a terra per dormirci noi tutti insieme e il letto allora si poteva lasciare tutto quanto per lui.» Mi abbandonai a ridere e lei mi fece eco, ma la sua risata finì in un sospiretto puerile, a malapena represso. Quasi che, nel parlarne, ella si fosse affezionata alla sua fiaba e non avesse voglia di staccarsene ancora. Mi sorrise poi con una specie di mestizia protettrice, e intanto i suoi occhi, seri, affettuosi e consapevoli, parevano scusarsi col dirmi: «Io tengo una mente stupida e vado fantasticando, però nella mia coscienza non dimentico mai la realtà.» A un certo momento udì la sua voce osservare: «La luce della lampada si è fatta più bassa.» E le risposi: «È il segnale che fra poco si spegnerà. Ogni sera si spegne per un minuto quando fanno il cambio degli elettricisti alla cabina centrale.» Ella ritornò taciturna e non si mosse per un pezzo da quel suo raccoglimento ispirato. Solo un secondo prima che si spegnesse la lampada mi guardò e ruppe di nuovo il silenzio con una frase la quale in realtà era un'osservazione puerile, vuota perfino di un significato logico, ma proprio per questo, forse, risuonò come un responso misterioso. «E pensare», disse, «in questo tempo che tuo padre ogni tanto nominava Arturo, Arturo, e pensare che quell'Arturo eri tu.» Allo spegnersi della lampada, un fioco riflesso lunare si svelò nella stanza, attraverso le vetrate polverose. Io mi sdraiai supino in terra, pigramente. Intravedevo, al di là del mio corpo disteso, l'ombra seduta della sposa come una statua, e guardavo con la testa rovesciata la opaca finestra alle mie spalle, immaginandomi la figura sottile della luna nuova che là, dietro il vetro, discendeva il sereno come lungo un filo. Che si riaccendeva la lampada. Mi ero quasi assopito. La sposa mi richiamò. «Artù», mi disse, «chissà che ore sono adesso?» E così fu questa la prima volta che essa mi chiamava per nome. Mi scossi levandomi a sedere e subito ritornai al presente, alla stanza illuminata con la sposa seduta sulla valigia. Risposi: «Devono essere circa le 6:30, perché ogni giorno è verso quest'ora che cambiano il turno della luce.» Ella balzò su dalla valigia. «Le 6:30!» esclamò. «Ma allora bisogna far presto ad accendere il fuoco per la cena di stasera.» Le feci sapere che veramente in casa nostra la sera non si accendeva mai il fuoco. Ogni mattina Costante provvedeva a cucinare anche il pasto della sera, e certo oggi pure aveva fatto come al solito, lasciandoci la cena già pronta riposta nella credenza. Ma, con accenti pieni di importanza e di fervore, ella insisté a voler riaccendere il fuoco per riscaldare i cibi o magari per cucinare la pasta. Allora scendemmo in cucina. La sposa, preparandosi ad accendere il fuoco, si mise a cantare, e io mi riscossi all'udire la sua voce che nel canto si faceva più agra e selvaggia. Ella andava su e giù dalla cassetta delle fascine al focolare con delle mosse avventate e fiere, aggrottava le ciglia e aveva assunto un'espressione rissosa. Pareva che, per lei, l'accensione del fuoco fosse una specie di guerra o di festa. Non avendo trovato nessuna ventola in cucina, si dette a soffiare lei medesima sui carboni, con grande energia. E io mi rammentai di un'illustrazione delle crociate in cui si vedeva il vento aquilone, rappresentato come un arcangelo ricciuto, nell'atto di soffiare su una flotta. A furia di soffi, i carboni finalmente furono accesi, e allora lei, per animare la fiamma, alzò con le due mani il lembo davanti alla propria gonna e prese a sbatterlo furiosamente, come una ventola, innanzi alla bocca del focolare. Si alzò un grande scoppio di faville, ma lei seguitò a sventolare la gonna con la foga violenta di una ballerina gitana, e intanto cantava, gola spiegata, dimenticandosi di ogni timidezza, come fosse sola e nella sua casa di Napoli. Non cantava con abbandono sentimentale, ma con un'asprezza infantile, spavalda, con certe note acute che richiamavano qualche amaro canto animalesco, forse di cicogna, di uccelli nomadi sui deserti. I carboni ormai divampavano, ed essa, riabbassata la gonna, andò all'acquaio e versò l'acqua nella pentola senza smettere di cantare. Avendo terminato i suoi preparativi, venne a sedersi in terra presso la mia panca. Osservò il libro che, ancora chiuso, era rimasto lì dinanzi a me e faticosamente, alla maniera dei mezzo analfabeti, ne compitò il titolo. Le vite degli eccellenti condottieri. Le vite degli eccellenti condottieri, ripeté, e mi guardò ammirata, come se, per il solo fatto di leggere un libro simile, io stesso meritassi il rango di condottiero eccellente. Quindi mi domandò se mi piacesse leggere. Risposi, si capisce, certo che mi piace. Allora, mortificata, ma tuttavia con una sorta di rassegnazione fatalistica, come chi riconosca un fatto su cui non c'è speranza né rimedio, essa mi confessò che a lei, invece, il leggere non piaceva. Tanto che quando era piccerella e andava a scuola, piangeva ogni mattina solo a rivedersi il libro davanti. Di classi a scuola era arrivata a terminare la seconda, ma poi aveva smesso. A casa sua, a Napoli, i libri c'erano. C'era un grande romanzo che gli aveva dato la sua comare e più in libri di studio di sua sorella che faceva la terza. Ma lei, fino da piccerella, aveva concluso che la lettura dei libri era solo una penitenza, senza nessun frutto. A lei pareva che dentro i libri ci fosse solo una confusione di parole. A che valevano tutte quelle parole là, stese, morte e confuse su una carta? Oltre alle parole, lei in un libro non ci capiva nient'altro. Ecco tutto quello che arrivava a capirci. Delle parole. Tu, io le dissi, parli come Amleto. Avevo letto in traduzione italiana la tragedia di Amleto, oltre a quelle di Otello, di Giulio Cesare e di Re Lear, e disapprovavo assolutamente la condotta di questo personaggio. «Chi è Amleto?» essa domandò. Con una smorfia sprezzante le risposi «Un buffone!» e a questa mia risposta ella dette in uno scroscio di risa un po' nervose. Non capii subito perché ridesse tanto, ma presto mi resi conto che la qualifica di buffone, da me data ad Amleto, essa, come naturale conseguenza dei miei discorsi, se l'era presa anche per sé. A tale idea anch'io mi abbandonai a ridere, poi ridivenni serio e le spiegai. Amleto era un buffone, il perché lo so io. Ma tu non hai niente a che fare con lui, hai capito? Lui era il principe di Danimarca. Vidi che, a simile rivelazione, il suo volto esprimeva un riguardo considerevole, e allora esclamai risoluto. Non fare quella faccia servile. La maggior parte dei re e dei principi sono tutti buffoni. Questa era una delle conclusioni più recenti alla quale io ero arrivato. E mi avvidi che non potevo annunciarla alla mia ignorante ascoltatrice senza aggiungere qualche spiegazione adatta. Non basta mica possedere un trono, le dissi, per meritare il titolo di re. Un re deve essere il primo valoroso di tutto il suo popolo. Per esempio, Alessandro il Macedone, lui fu un vero re, lui, aggiunsi con una certa invidia, era il primo di tutto il suo popolo, non solo per il valore, ma anche per la bellezza. Era di bellezza divina. Aveva dei capelli biondi, fatti e ricci che parevano un bell'elmo d'oro. Essa mi ascoltava, al solito, con profonda attenzione e rispetto. Osservò ammirata, «Tu sei più guaglione di me, capisci tante cose». Io proseguì, spazientito per quella sua parola guaglione. Ma di re come lui ce ne stanno pochi, e quelli che accettano il titolo di re, senza avere la stessa bravura di lui, sai che cosa sono? Sono dei fetenti senza onore. Sì, degli usurpatori del comando. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.